Capitolo trentesimo. Zagreo. Zeus generò in segreto suo figlio Zagreo in Persefone, prima che essa fosse condotta nell'oltretomba da suo zio Ade. Egli affidò ai cureti cretesi, figli di Rea, o secondo altri ai coribanti, il compito di custodire la culla di Zagreo nella grotta Idea, e colà essi gli danzavano attorno, battendo le loro armi l'una contro l'altra, come già avevano fatto attorno alla culla di Zeus sul ditte. Ma i titani, nemici di Zeus, sbiancandosi il volto col gesso per rendersi irriconoscibili, attesero finché i cureti furono addormentati e a mezzanotte indussero Zagreo a seguirli, offrendogli dei giocattoli, un cono, un rombo, mele d'oro, uno specchio, un astragalo e un batuffolo di lana. Zagreo diede prova di grande coraggio quando poi i titani gli balzarono addosso minacciosi e si sottopose a varie metamorfosi per trarli in inganno. Divenne successivamente Zeus avvolto in pelle di capra, Crono che fa cadere la pioggia, un leone, un cavallo, un serpente cornuto, una tigre e un toro. A questo punto i titani lo afferrarono saldamente per le corna, gli affondarono i denti nella carne e lo divorarono vivo. Atene interruppe l'orrendo banchetto poco prima della fine e, impadronitasi del cuore di Zagreo, lo rinchiuse in una figura di gesso nella quale soffiò la vita. E così Zagreo divenne immortale. Le sue ossa furono raccolte e sepolte a Delfi e Zeus uccise i titani colpendoli con la folgore. Questo mito si riferisce al sacrificio annuale di un fanciullo che si compiva nell'antica Creta. Un sostituto di Minosse, il re Toro, regnava per un solo giorno. Partecipava a una danza simboleggiante le cinque stagioni, leone, capra, cavallo, serpente e vitello, e poi veniva ucciso e divorato crudo. I balocchi offerti dai titani erano oggetti usati dai filosofi orfici che continuarono la tradizione del sacrificio, ma sostituirono il fanciullo con un vitello. Il rombo era un sasso forato o un vaso che, roteando legato all'estremità di una corda, produceva un suono simile a quello del vento che s'alza. Il batuffolo di lana serviva probabilmente a imbrattare con gesso i volti dei cureti. Costoro erano giovani che si erano recisi i capelli offrendoli alla dea Car. Venivano chiamati anche coribanti o danzatori crestati. Gli altri doni servivano a spiegare la natura della cerimonia grazie alla quale i partecipanti si identificavano con il dio. Il cono era un antico emblema della dea a cui i titani sacrificarono Zagreo. Lo specchio rappresentava l'alter ego o l'ombra dell'iniziato. Le mele d'oro il suo passaporto per i campi elisi dopo la finta morte. L'astragalo i suoi poteri divinatori. Un inno cretese scoperto pochi anni or sono a Paleocastro, presso la grotta di Ditte, è rivolto al Cronio, il principe dei giovani, che giunge danzando alla testa dei suoi demoni e saltella per accrescere la fertilità del suolo e la fecondità delle greggi, nonché la buona sorte delle flottiglie da pesca. Jane Harrison, in Themis, fa l'ipotesi che i protettori mediante lo scudo menzionati nell'inno, i quali ti prendono, immortale fanciullo, dal fianco di Rea, fingessero soltanto di uccidere e mangiare le vittime, secondo un rito di iniziazione alla loro società segreta. Ma tutte queste finte morti e cerimonie iniziatiche, diffuse in molte parti del mondo, pare comportassero in origine veri e propri sacrifici umani. E le metamorfosi calendariali di Zagreo lo distinguono dai soliti membri di un clan totemico. La presenza non canonica della tigre come ultima metamorfosi di Zagreo è spiegabile in quanto Zagreo si identifica con Dioniso. La leggenda della morte e della resurrezione di Dioniso infatti è identica alla leggenda della morte e della resurrezione di Zagreo, benché la sua carne sia divorata cotta anziché cruda e si trovi citato il nome di Rea anziché quello di Artemide. Anche Dioniso era un serpente cornuto, aveva corna e riccioli di serpente alla nascita. I suoi seguaci orfici mangiavano la carne del dio sotto forma di tori. Zagreo divenne Zeus avvolto in pelle di capra, poiché Zeus, il suo fanciullo di sostituzione, era sceso al cielo avvolto nella pelle della capra Amaltea. Crono che fa scendere la pioggia è un'allusione all'uso dei rombi nelle cerimonie propiziatorie di pioggia. In queste circostanze i titani erano i titanoi, uomini bianchi come la calce, cioè i cureti stessi, travestiti in modo che lo spettro della vittima non potesse riconoscerli. Quando i sacrifici umani caddero in disuso, Zeus fu rappresentato nell'atto di scagliare la folgore contro i cannibali, e i titanes, signori della settimana di 7 giorni, furono confusi con i titanoi, gli uomini bianchi come la calce, a causa della loro ostilità a Zeus. Nessun orfico che avesse mangiato la carne del suo dio toccava più carne di alcun genere. Dioniso Zagreo era noto anche nella Palestina meridionale. Secondo le tavolette di Rashamra, Ashtar occupò temporaneamente il trono del cielo mentre il dio Baal languiva nell'oltretomba per aver mangiato il cibo dei morti. Ashtar era soltanto un fanciullo e quando sedeva sul trono i suoi piedi non toccavano lo sgabello. Poi Baal ritornò e lo uccise con un colpo di bastone. La legge mosaica proibì le feste di iniziazione in onore di Ashtar, Astarte. Tu non farai bollire il capretto nel latte di sua madre. È un'ingiunzione 3 volte ripetuta.